segnale, anche è migliorata anche la radio, quindi prima facevo una radio che era pessima, adesso, cioè, era bassa, adesso un po' più di radio, cioè, oltre che è aperto le cille, se le metti le MB più 4 guai, anche poco bomba. Ok, Babu, tu ne mi fai la zia. A chi rimani, e stamani per i cani di Guido in giro, non voglio che tocchiano i viaggini, da cui sono cazzato. Capire in giro. Che tu che fare i cani da cazzo, so. Stamani erano in giro. Mi ha dato il cane da andare, un pollaio. Non le sai che ancora i cosi. No, da nei vecchi, però si fa di danno come si ha fatto ora, non passato, che sta voce non ve la posso passare lì. A che non riesce a curvuccione di rovino che ce l'ho dato in culo. Ma devo dire un po' di mai, no, che devo già mettere le cose in chiaro. E già fatto, ma ogni tanto si dimentica che c'è anche rovino, rovino, adesso guarda come di voce cosa fatti, no? Dimmo che cosa cazzo che vuoi dire, non che vuoi dire niente. Solo da poi la Ciappuzzano, a forse che non si ammenta, vita di tassa, però ci sto raffaggiando, ma se l'hanno passato, bello qua. No, a me imbriaco, non imbriaco. Sta fino in casa tua, da tempo è un vedo poco lontano, cosa devi fare a fare, se sei vicino di gattine per i cani da casa. Sai, no? Cazzo, la campagna è recintata, però se li faranno da sopra, i cani parano, poi ci sono gli apparati, sì. E non vuoi voglio evitare questi cose, appunto, così, beh. Cazzo, parlo, bravo. Cazzo, io, mi sono sentito buono. Vabbè, ti mando una foto adesso, ti mando in questo momento, e tu mi dici se è Ghizzo o no. Io ti sto mandando una foto, e tu mi dici se è quello lì, ok? Ah, pagato. Aspetta che ce la fa ricchia dall'altra parte, però. Prega, vai a baldare un attimino. Hai fatto lo ciunietto, l'hai fatto. Potentini che so cosa che succede, no? Anche i figli. Guarda sei combinati. Un caldo gioco. Un caldo gioco. Sono qua, Gabriele. Mamma mia, capo, mi faccio le coccole. Facci da una benichella, dai. Ci aggiorniamo più tardi, Adini. Ehi, alla radio finna, eh? Andà vecchio, come ci vedremo, a facchi o a pucci? Va molto meglio. Andà vecchio, già fatti una cucca, e riposa un po', quella che andata per scattarti gli occhi, quindi fammi uno squillo, quando mi ricetta. Dai, che io pure avanti, mi muccio di palestra, non riesco appena a fare. Ehi, ok, ok. Va bene, ciao ciao.